sostanziale, speciale, eccezionale, se tu sei ta speciale. Corso spaziale, speciale, eccezionale, se tu sei tu sei ta. E siamo di nuovo qui nello studio di Radio Città Fujiko a Setup, dove ha luogo una programmazione speciale di Coxo Spaziale che si chiama appunto Coxo Spaziale Speciale Setup. Io sono qui insieme ad una co-conduttrice super coxica e galattica e completamente occasionale. Che investe W De Lauris. Esatto. Che è la conduttrice su Radio Città Fujiko di Please Kill Me, programma che va in onda la domenica sera dalle 20 alle 21. E io l'ho brincata qui che girava per lo studio, per lo splendido studio di Radio Città Fujiko a Setup, e l'ho inchiavardata alla sedia di Coxo Spaziale. E ti volevo dire in particolare che questo jingle che abbiamo sentito, che introduce tutte le puntate di Coxo Spaziale Speciale Setup, è stato realizzato niente po' di meno che da Riccardo Lolli, che è qui. Salve, ciao. Ciao. Insieme anche ad Enrico Farnedi. E lui è qui proprio per parlarci della sua creatività musicale. Lui è un cantautore, nonché un grande collaboratore coxico. Senza Lolli il coxo sarebbe un'altra cosa. Perché sin dalle prime puntate, cioè che mi avete registrato quando ero in Corea con Pasquini e sì, avete messo in onda un'intervista, penso che fosse la prima o la seconda puntata. Poi sei anche partecipe di alcuni dei jingle che noi trasmettiamo. Sì, sì, sì. E poi ultimamente ci ha regalato anche una rubrica che si chiamava 2 minuti di Lolli, di cui ho mandato ai noi l'ultima clip proprio due puntate fa. Sto parlando sempre della Coxo Spaziale su FM. Mi sento un po' in colpa anche per questo, ma sì, tutte le cose belle poi finiscono, quindi no, adesso cerco di produrre qualcos'altro. Perché è un gran produttore. E sono stato anche ospite di, esatto, Please Kill Me, che colpo di scena. Sono stato ospite di Please Kill Me un anno e mezzo fa. E tra l'altro, di tutti gli ospiti del Coxo, l'unico che William Piana si ricordava ieri era proprio lui. Un piccolo genio, piccolo, anche abbastanza grande, però. Io l'ho invitato come membro dei Central Unit, che è un grandissimo gruppo già molto storico, tra parentesi, proprio che mi ricordo che suonarono anche con gli Sturzende Noi Boten, addirittura in Germania. Sì, senza di me, non c'ero ancora, ero troppo piccolo, sono entrato dopo io nel gruppo. Però allora è un gruppo veramente. E dopo è entrato lui, tra l'altro mi diedero un CD che io ho ascoltato tantissimo, proprio molto bello. E allora, a proposito di Riccardo Lolli, di questi trascorsi, di CD, facciamo così, mettiamo subito su un brano di Lolli dal suo ultimo album e poi entriamo nel vivo della puntata, che in realtà è intitolata The Lollis, perché una creatività così vulcanica, così sorprendente, così sempre precisa e fresca, vogliamo indagarla. Allora abbiamo coinvolto anche la sua famiglia per vedere se magari da casa qualche elemento sul perché Lolli è come è così. Cioè, è così. Va bene. Allora, che brano mettiamo? Potresti mettere Col caldo, visto che qui fa abbastanza caldo. Perfetto. Col caldo sia. Col caldo vado un po' in agitazione. Oscuro tutta la mia abitazione, contatto il mio dentista ma va in ferie, respirando sulla ghiaia, lontano la vecchiaia, che alla pesca della festa sono serie. Calda del dentista. vista. Sogno una crociera ma noiosa, scelgo la mezza pensione, mi mangio a colazione i fiocchi da vena varicosa. Solvenza è sempre quella, il vento solidale ma in pietà, ora al canto d'autostrada la caviglia si degrada, adesso lo spessore è la metà. Sono serie. E insomma, mia cara De Lauris in veste W, come ti è sembrato questo brano? È una bella domanda, No, no, ma bello, molto bello, anche perché poi, insomma, molta fiducia in Riccardo. Comprendi perché ho voluto dedicare una puntata proprio alla scoperta dell'intima creatività che c'è dentro. Creatività generica, l'avevi fatto tu il creatività jingle. Generica, ecco, sì. Metto anche questo jingle qua, così lo senti anche tu. Creatività generica. E lui è insieme ad Enrico Farnedi, che ormai siete una coppia consolidata, esatto. E hanno registrato tutti i jingle della nostra trasmissione. Forse qualcosina abbiamo cominciato a farlo anche noi, però non vale il confronto. Avete sovrainciso, mi sembra di ricordare, qualche cosa sui nostri jingles. Esatto. La menzione, sì, ci ha sgamato, effettivamente ci ho messo sopra qualcuno che dicesse l'angolo della menzione. Però intanto metto quella lì, quell'altra. E poi hai fatto quello di Coxo Spaziale speciale setup. Eccezionale, setup. Questi giochi di parole. Sono per far presto, secondo me, praticamente, in definitiva, perché il tempo è sempre un po' scarso. E, per esempio, ecco, se vuoi sapere la genesi di questo stacchetto. Il problema principale è che io abito al confine con la Toscana, a Casello di Rioveggio, diciamo indicativamente, e Farnedi sta fuori Cesena, per cui trovarsi non è immediato. Adesso non dico che sia... c'è chi sta peggio, tipo per esempio i Tuxedo Moon, uno è in Israele, uno in Belgio e l'altro in Messico, quando devono fare le prove diventa un po'... Ecco, noi siamo... Però adesso... col computer si può collaborare, ecco, anche sì, quello sicuramente a distanza, sì. Però quando devi provare dei pezzi per fare un concerto bisogna deve venire il momento, poi che ti devi vedere con gli strumenti, insomma, quelli che c'erano già da un po' prima dell'elettronica e via dicendo, perché tu alla fine tu sei pianista, sì, tastiere, pianoforte, quando se necessario suona anche la batteria e un pochino il basso, ecco, però insomma adesso... preferisco farlo fare agli altri che già suono male il pianoforte, insomma E io butterei lì su questo pianista subito agli altri lolli della situazione. Ma quando papà fa le prove a casa? E allora, intanto lui ha uno studio tutto suo che sta sempre chiuso, però. Un po' dalla mattina alla sera. E lì dentro cosa c'è? È tutta elettronica, è, tra computer, CD, film, è tutta un'elettronica. È il mondo di Lolli? Sì, praticamente la Bat Caverna, sì. La Lolli Caverna. Mi ricorda anche un pochino, non so se l'avete visto, Di Esiste e Vive a New York. Sì. No, Vive no, a Bruxelles. Vive a Bruxelles, bellissimo. Bellissimo. E infatti anche quel personaggio di quel film diceva ai figli fuori, come mi immagino che tu abbia detto per molto tempo ai tuoi. Oppure ho cercato no. di abituarli, sì, no, ho cercato di abituarli non con la, con la severità come Benoît Poelvoorde in quel film, però insomma ho cercato di istruirli, diciamo, a non toccare. Poi ogni tanto penetrano e qualcosa, trovo qualcosa fuori posto, ma niente di grave, insomma. Ma allora, cioè, siete attratti da questa cosa oppure magari il classico spirito di contraddizione, vi piacerebbe suonare uno strumento tipo la chitarra? Suoni la chitarra? Sì. Acustica o elettrica? Acustica. Ah, però. E io invece suono il pianoforte, quindi un po' suoniamo anche noi. Sta venendo sulla band, te li sei cresciuti bene, Riccardo. Ma e com'è questo, cioè, quando il papà, lo riuscite a vedere quando Riccardo torna a casa che c'ha un'idea e deve andare a registrarla? Allora, io non troppo, non credo anche Francesco non troppo, ma... quando ha qualcosa da fare si mette lì un po', ci pensa anche e poi prova e riprova finché non ci riesce bene e volendo sta lì anche dalle 8 di mattina a mezzanotte finché non la fa bene un Quindi po'. Quindi è un perfezionista. Se si può dire, sì. E vi schiavizza un po', dice portatemi il caffè, portatemi un panino. No, quello no, quello no. Oppure come fa Pasquini quando registra i jingle, che fa dire tutto ai suoi figli. Ecco, avete partecipato in maniera reale, concreta, alle produzioni di Riccardo? Allora, proprio alle produzioni di Riccardo, no. Però... dice Riccardo, ma come? Ah sì, a parte un pezzo che si chiama Mama, che praticamente io da piccolo ho detto questa frase e da qua ha preso l'ispirazione Riccardo. Ma lo chiami Riccardo? No, perché lo sto chiamando Riccardo io. Perché siamo alla radio. Ah, brava. Visto che già hai immedesimato. Il maestro Riccardo Lolli. Oh. Beh, ma perché allora non ascoltiamo anche Mama, dato che ci siamo? E poi magari ritorniamo su altri tipi di lavoro, perché questo è più il cantautorato, però Lolli è tanto oltre, tanto altro. Sì, nei limiti delle mie possibilità... cerco di fare, ho mille idee anche pessime, però ne riesco a realizzare due, ecco, quindi ho questa frustrazione perenne che De Lauris, che è così. Fortuna che ne ha poco di tempo, sennò avrebbe invaso. E delle volte lui prende ispirazione anche dalle cose che gli succedono, tipo c'è un pezzo nel disco che non mi ricordo come si chiama. Quello della riunione di condominio. Di una riunione, sì, intervento. E che è successa questa cosa e lui ha preso ispirazione. Va bene, da allora. Questo che è successo. Dai, ascoltiamocelo, che io sono curiosa. Ascoltiamo quindi quello della mamma o quello del condominio? Non c'entra il condominio, è un assessore, un discorso dell'assessore. È vero. Intervento. Allora andiamo con l'intervento. Va bene. per poi ascoltare i contributi dei Lolli Junior, vi toccherà, avrete l'onore e l'orgoglio di comprarvi il CD, perché adesso il CD c'è. Sì, finché c'è è meglio prenderlo finché c'è. Poi finisce. Tra l'altro è stato prodotto ha vinto un crowdfunding per produrre questo disco. Sono riuscito a portare a termine un crowdfunding che mi ha permesso di fare il master a Abbey Road. Non di persone, ho mandato i file, ci siamo sentiti online. Però, ma insomma, perché non avevi tempo? Sì, il problema è sempre quello. Sì. E allora, cara De Lauris, InvestW, anche questo è Riccardo Lolli e anche questo è Coxo Spaziale Speciale Setup. Il territorio, le risorse. Le risorse, il territorio e quant'altro. Il territorio, le risorse, il territorio, piuttosto che l'assessorato. Questa amministrazione è più che orgogliosa, più che avere dato spazio alle risorse del territorio. Sul territorio comunale, nelle persone, nell'ambito del progetto, nell'ambito della concessione. Le opportunità per le risorse, la localizzazione della manifestazione. Il progetto più ampio, e questo ne è un esempio. Il territorio, le risorse, il territorio. Valorizzare il territorio, valorizzare le risorse, il territorio. Che non vada dispersa la persona e la risorsa. Ed è senz'altro nella persona dell'assessore che è arrivato solo adesso, perché era chiuso nell'ascensore. È una persona di spessore che noi vogliamo ringraziare. L'amministrazione comunale, per lo stessore della manifestazione, finalmente le risorse localizzate sul territorio, nel rispetto della tradizione, seppur sapendo rinnovarsi, rispettando l'impattato, e con questo terminato non vorrei che ringraziare chi ha creduto nelle risorse, un progetto a lungo termine e quant'altro, nel posto che il territorio, le risorse, il territorio, e quant'altro, il territorio, le risorse, il territorio, piuttosto che il territorio, le risorse, il territorio, e chi più ne ha più quant'altro. L'assessorato, questa amministrazione è più che orgogliosa di avere dato spazio alle risorse, del territorio, sul territorio comunale, nelle persone, nell'ambito del progetto, nell'ambito della concessione, le opportunità per le risorse, la localizzazione della manifestazione, il progetto più ampio, e questo è un esempio. Valorizzare il territorio, valorizzare le risorse, il territorio. Che non vada dispersa la persona e la risorsa. Ed è senz'altro nella persona dell'assessore che è arrivato solo adesso, perché era chiuso nell'ascensore, che è una persona di spessore, che noi vogliamo ringraziare. L'amministrazione comunale è lo spessore della manifestazione. Finalmente le risorse localizzate sul territorio, e a rispetto della tradizione, seppur sapendo rinnovarsi, rispettando di quant'altro. E con questo terminato vorrei anche ringraziare chi ha creduto nelle risorse, un progetto a lungo termine e quant'altro, piuttosto che... W. De Lauris. Ho pensato che potrebbe essere anche WL. WL. In questo caso triple. Triple L. Triple L, perché c'è Lolli, Laura e De Lauris. Effettivamente, Coxo Spaziale vi doppia Pasquini. E Pasquini che ci aiuta anche ad entrare, che adesso nel fuori onda abbiamo fatto un po', abbiamo approfittato di questo momento di intimità per... addentrarci un po' di più, e abbiamo visto che ad esempio una cosa che accomuna Pasquini, che è il co-conduttore e co-ideatore di Coxo Spaziale, per il momento assente ma tornerà, e il cui presente Riccardo, che fra l'altro è un amico di Pasquini, quindi è grazie a Pasquini che io ho avuto la fortuna, e il Coxo ha avuto la fortuna di fregiarsi di cotanta autorialità e splendore rizomatico e spaziale galattico. E avete in comune questa cosa della raccolta sonora, quindi l'archiviazione folle, disperata, sepolti in casa, materiali con cui tu hai, diciamo, integrato, perché non è tutta parte registrata, e la rubrica Due Minuti di Lolli, che abbiamo trasmesso negli ultimi mesi a Coxo Spaziale FM. Cioè, sì, è quasi tutto roba di archivio, roba che ho conservato. Ci sono delle cose ancora del 1983, di quando avevo 15 anni. Con la cassettina. Con la cassettina che ho passato in digitale, però naturalmente compresse. Spesso erano cose più lunghe di 2 minuti, le ho. Ma avevi anche le bobine del geloso? No, quelle non ho mai avuto. Una volta collaboravo con una radio dell'Appennino, facevo le bobine notturne, cioè prendevo tutti i miei dischi personali, facevo che in radio non c'erano, mi avevano prestato un Revox e facevo le bobine delle 8 ore notturne. E quindi hai anche le bobine del Revox? No, le ho date, c'era la radio, non ho più niente. E non hai fatto niente con Revox, non hai delle bobine. Come hai fatto a lasciarle andare, a lasciarle uscire dalla Lolly Caverna? Ma tanto io avevo i dischi originali. Ah, così, ok, va bene. Le bobine interessavano poco. Beh, ma quindi... Noi ti abbiamo chiesto una rubrica oppure e tu ci hai fatto 2 minuti di Lolly. Sì, penso che non so se sei stata tu o Pasquini che voleva 2 minuti, forse Pasquini. Ma sì, penso di sì, nello specifico, anche perché mi sono arrivate queste cose che poi ho riconosciuto come 2 minuti di Lolly e ho detto vai, coxata, grande. E c'è un po' di tutto, anche da cose recenti a cose del 1983, per l'appunto ci sono dei demo, mi pare che ci fosse una demo di un pezzo che poi è finito nel CD. Poi c'è questa cosa che ti piace molto, che fa culto. Quello lì lo ascoltiamo a chiudere questa sezione di dialogo, per forza, te lo devo far sentire. Certo. È una colonna portante del Coxo e anche della ricerca contemporanea, è meravigliosa, è così. Sì, perché il lavoro di Lolly è così, gioca così tanto tra quello che succede intorno, il mondo reale, e poi questa visione un pochino più sottile, altra, stranita, che ti permette di... Cioè, io certe volte ascolto i tuoi brani e mi commuovo, se permetti, e non è che mi capita tanto spesso con altri cantautori, cioè quelli che ad esempio vanno per la maggiore, mi toccano molto meno di quanto non mi tocchi lui. Te lo dico. Io mi rimango basito, però mi fa piacere, ecco, che delle cose che secondo me sono surreali e frutto di una mente anomala possano commuovere, mi sembra molto strano ma bello siamo ma strano. All'interno di Setup, quindi se anche c'è qualcosa di surreale va bene, no? Cioè tutto quello che è fuori dall'ordinario. Questo è il contesto giusto, no? Siamo quindi anche all'interno di Coxo Spaziale. Ricordiamoci, esatto, siamo in un'altra dimensione, un altro pianeta. Io prima di venire qui mi sono fatto un giro qua e sono molto colpito dalle cose bellissime che ho visto in giro. Ecco. Per esempio, a me piace l'arte, io sono ignorante a livello spaziale, per quanto riguarda l'arte, però per esempio a me l'arte contemporanea piace, mentre per esempio se devo andare a vedere una mostra di, non lo so, adesso c'è Bruegel a Bologna, ecco, apprezzo la grandezza, però mi interessa relativamente. Sei meno invogliato. Perché poi è più divertente l'arte contemporania, cioè ci si diverte di più, perché poi uno può esprimere un proprio parere più disinteressatamente, cioè senza paura che poi dopo ti criticano, no? Perché chi oserebbe criticare? Ma come nel 780 quest'autore? Come tu non lo sai? Ma le tecniche, soprattutto le tecniche che usano, che ho visto usare in queste opere esposte qui, delle tecniche fantasiose. Tecniche, che a me piace, materiali di recupero, lo straniamento, lo spostamento di un oggetto da un contesto all'altro, che è un po' quello che fai tu, o che almeno hai fatto tu sicuramente nei 2 minuti di Lolly. Scusami se te lo ricordo. E quindi sei in sintonia, perché questo cut up o questo uso di materiali vari tu lo fai con la musica. Sì, in effetti lo ammetto. Caro Lolly, lo ammetto. Tu sei il contemporaneo. Bene, grazie. Fai dei collage sonori. Ragazzi, a sapere che vostro padre è il contemporaneo, come vi prende? Allora, cioè, bene. È simpatico, sì, colorato, ci si può tirare le cose. No, non proprio così. Comunque sì, fa molte cose, soprattutto molto fantasiose anche lui, come dicevi te. E, infatti, cioè, sì, è bello. Quando è che sei stato ammesso nella sua stanza le prime volte, ti ricordi? No, esattamente no, però delle volte ci vado così, anche... E avete mai messo le mani anche voi? Stavi per chiedere? No, volevo sapere se lui vi sgrida, se voi toccate qualcosa, oppure se vi incita a dire ma prova a toccare qua. Delle volte tocca il piccolo delle cose. Sì. Dice se e fa il sorriso da furbetto. Se c'è mio papà le posso fare delle volte. Di sì. Nascosto no, Beh, bravo, giusto. Delle volte prendo il wifi da solo, ma è sul cassetto, poi l'attacco. No, per capire il discorso, perché noi abbiamo una chiavetta, un cubo wifi, per non avendo la grazia di avere la DSL nella mena località dove viviamo, abbiamo questi palliativi, che è un cubo che si attacca alla presa di corrente e mette il wifi, e a volte lo nascondiamo perché poi c'è il limite di un giga al giorno, che loro qui se lo bevono come il caffè alla mattina, un giga a vedere i video e una cosa e l'altra, e dopo cominciano ad arrivare dei 20, 40, 80 euro in bolletta. Allora bisogna spesso tenerlo da parte questo cubo, allora lo vengono a prendere da me, insomma. Ma posso fare una piccola variazione e fare un po' di ricerca sui gusti della gioventù emergente, che chiedere che cosa guardano di musica e di video? Posso? Allora, io ascolto un po' di musica new age, se si può dire così. Cigliato. Cioè, nel senso, io non di so adesso. Neanche cosa sia la musica new age, sono proprio... No, non so come dire, cioè, new age, lei lo sa. Mi sorprende, devo dire, perché è musica molto da adulti. Il nome di chi ascolta. No. Dai. Non lo so, tipo Maroon 5, quelle cose lì. Cioè, adesso ho detto new age per dire... Non sapevo che Maroon 5 fossero new age. Io non sapevo neanche che fossero. No, appunto, sì, ho detto una cavolata. Cioè, ho sparato per dire tipo di oggi. Per darti un tono, allora hai detto... scritto di oggi, ti do una risposta da adulto. Ma sai che in realtà io questa cosa qui, delle definizioni dei generi, non l'ho capita allora quando avevo la tua età e non la capisco adesso, e temo che non la capirò ancora mai. Uguale anch'io, io sono completamente ignorante, dico ieri, delle volte qualcosa dei generi così, ma non ci capisco assolutamente niente. Due giorni fa avevo un musicista elettronico e avevo invitato Max Macchia da Radio Città Fujica a farmi da co-conduttore. Erano lì che parlavano, no perché questo è più glitch. E poi tu le sai queste cose? No, io le so perché c'è la moda di creare sempre nuovi sottogeneri, no? E se tu, adesso io mi occupo di punk, e se tu vai a fare una ricerca punk sottogeneri, io ci ho fatto 3000 puntate su queste cose, perché trovi proprio tutto, perché ogni cosa si incrocia con qualcos'altro, che a sua volta si incrocia con qualcos'altro, eccetera. È troppo riduttivo dire rock oppure dire, capito? È allora, un po' un labirinto di musica. Sì, è una ramificazione, no? Fai finta un albero e ad ogni radice, ogni ramo c'è un altro ramo, eccetera. Comunque, effettivamente io ho aperto il dialogo su questa cosa dei generi, però non ci sfugga che il secondo genito Lolly non ci ha detto la musica che ascolta lui. Esatto. Tipo i quartetti d'arte di Vivaldi. Di mio fratello ascolto. Ah, quindi sei tu la pripista per... Sì, allora, di solito, cioè, noi ascoltiamo un po' la stessa roba. E di solito sono io che propongo i pezzi a lui, e quando lui gli piace, insomma, lo ascolta. E adesso vorrei fare... Ma non è che ascoltate poi di nascosto Max Gazzè per caso, eh? A me un pezzo di Max Gazzè mi piace, ma solo uno. L'ultimo, quello lì, no. quello orecchiabile lì che non so. Ma la cosa, la cosa, la cosa più seguita da questi qua è, sono gli youtuber. Sono questi giovinotti di Belle Speranze che fanno Favij. Vi piace? Insomma, no, ormai no, è vecchio. Sei già vecchio. E il dottor com'è che si chiama il dottor Cacampopò? No, quello che spiega le cose del mondo. C'è una cosa che c'è Jumbo, che è uno youtuber che gioca da Gario, con un gioco che inizi a giocare che sei una mini pallina e prendi degli altri pallini e diventi sempre più grande. Sì, guardiamo. Meraviglioso, meraviglioso, grazie. Qualcosa di, sì, videogame, un po' di Dai, youtuber. Dici, visto che Favij ormai è andato, dici quelli nuovi. C'è neanche una compa qua di Bologna che fa le cose, poi si trovano in piazza. Allora, Bologna no, ma il più vicino che seguo molto, io che mi piace molto, è di Fiesole, Firenze insomma, sì. Che si chiama Stepney. Stepney, ok, andremo a vedere. Vero, non sono incuriosita. Sì. E tu, caro Lolli, anche youtuber per caso? No, io mi ritengo la larga degli youtuber anche per questioni di tempo. Solo perché c'hai il cubo, appena c'ho ti il arriva cubo, la DSL. E non posso dopo magari riuscire, magari guardo delle altre cose, non gli youtuber, però... No, lo diventi tu, ti faccio... Ah, no, beh, io credo di essere... Cioè, vorrei esserlo già, ecco, poi posto magari un video, due video all'anno, però mi considero uno youtuber. Ma appena ti arriva la DSL, il wifi e tutto, diventi youtuber subito anche tu, noi tutti a piacciare, cliccare... Sì, beh, spero di migliorare, sì, con la DSL. Sicuro. Sono entrata anch'io nel mondo YouTube. Sì, ho messo qualche video e ho già 25 iscritti, una cosa così. Meraviglioso, sono più di me. Più di me di sicuro. Sono tutti i miei amici, però è una mini soddisfazione, se vogliamo dire così. Guarda, ne sarebbe fiero anche Pasquini, che stava parlando proprio di questi fenomeni con Cavallucci 2 giorni fa ed è stata anche la prima puntata di Coxo Spaziale Speciale Setup. E che meraviglia, io direi a questo punto ascoltiamoci quello che potrebbe essere un'anticipazione della produzione youtuber di Riccardo Lolli. Ascoltiamoci Faculto, che dopo tanto averne parlato, e poi ritorniamo qui per vedere se ci sono alcune cose da sviscerare oppure salutarci e risentirci prestissimo. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Amica me. La messa è finita. Sì, stiamo andando via. Tutta mia, la città, a me, Già finito? Coxo spaziale speciale eccezionale, se tu sei ta speciale. Oxo spaziale, speciale, eccezionale. Se tu sei tale.